Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. Tutti i lussi confacenti alla mia posizione non si potevano ottenere, naturalmente, senza credito né denaro. Ma il nostro patrimonio era stato dissipato dagli antenati e, d'altra parte, noi eravamo troppo al di sopra del commercio, attività essenzialmente volgare, di profitti tardivi e di incerte fortune. Perciò, per procurarci il necessario, mio zio teneva un banco da gioco di faraone. Eravamo in società con un fiorentino ben noto in tutte le corti d'Europa, il conte Alessandro Pippi, giocatore abile come pochi, ma che alla fine si dimostrò nulla più che un mascalzone. Del resto dovevo poi scoprire che sua signoria il conte era un impostore puro e semplice. Mio zio era menomato. Pippi, come tutti gli impostori, era un vigliacco. Era la mia incomparabile abilità con la spada e la mia solerzia nel farne uso a mantenere la buona reputazione della ditta, per così dire, riducendo al silenzio più di un giocatore irresoluto che avrebbe forse tergiversato per non pagare le sue perdite. Eravamo sempre disposti a giocare sulla parola, con chiunque, cioè con chiunque fosse uomo d'onore e di nobile lignaggio. Non insistevamo mai per venire pagati in fretta, e in mancanza di oro non rifiutavamo un pagherò. Ma guai a chi non faceva fronte all'impegno nei termini fissati. Redmond de Balibari si presentava regolarmente con il conto, e vi assicuro che c'erano pochissimi debiti insolvibili. Al contrario, i gentiluomini ci erano grati della pazienza, e la nostra fama di persone d'onore rimaneva immacolata. In tempi più recenti, un volgare e testardo pregiudizio diffuso in tutta la nazione ha gettato un'ombra sulla figura dell'uomo d'onore impegnato nella professione di giocatore. Ma io parlo dell'Europa dei bei tempi andati, prima che la viltà dell'aristocrazia francese in quella vergognosa rivoluzione che l'ha servita a puntino portasse discredito e rovina sulla nostra categoria. Oggi molti gridano vergogna su chi si dedica al gioco, ma mi piacerebbe sapere che cos'hanno i loro mezzi di sussistenza di più onorevole dei nostri. La gente di cambio, che specula al rialzo e al ribasso, e compra e vende e pasticcia con prestiti a lungo termine e si arricchisce con i segreti di Stato. Che cos'è se non un giocatore? Il commerciante che traffica in tè e in sego è forse qualcosa di meglio. Le balle di Indaco Sudicio sono i suoi dadi, e le sue carte vengono distribuite ogni anno invece che ogni 10 minuti, e il mare gli fa da tavolo verde. Voi chiamate onorevole la professione legale in cui si è pronti a mentire per qualunque offerta, a opprimere la povertà per intascare l'onorario della ricchezza, a opprimere la giustizia perché nel mandato di comparizione si ha l'ingiustizia dalla propria parte. Chiamate onorevole il dottore, un ciarlatano imbroglione che non crede nemmeno lui ai rimedi che prescrive, e vi prende una guinea per avervi sussurrato all'orecchio «Che bellissima mattinata!». Eppure, incredibilmente, un galantuomo che si piazza al tavolo da gioco e sfida chiunque si presenti, il suo denaro contro il loro, la sua fortuna contro la loro, è un proscritto nel vostro mondo così morale e moderno. È una vera e propria cospirazione delle classi medie contro i gentiluomini. Ma certo, al giorno d'oggi, soltanto l'ipocrisia bottegaia può fare cassetta. Io vi dico che il gioco era un'istituzione cavalleresca, e aggiungo che è stata fatta a pezzi insieme ad altri privilegi della nobiltà. Quando Seingalt impegnò un avversario per 36 ore senza alzarsi dal tavolo, credete che non abbia mostrato coraggio? Secondo voi, in nome di cosa abbiamo avuto il miglior sangue d'Europa e gli occhi più brillanti e graziosi a palpitare attorno al tavolo, quando io e mio zio tenevamo le carte e il banco contro qualche formidabile giocatore che di tutti i suoi milioni ne arrischiava solo qualche migliaio, mentre tutto ciò che noi avevamo era gettato là, sul panno verde. Quando ci impegnammo contro quel diavolo di Alexis Kozlovsky e vincemmo 7.000 luigi in un colpo solo, se avessimo perso, l'indomani saremmo andati a mendicare. Quando lui perse, ci aveva rimesso soltanto una lettera di pegno per un suo villaggio e qualche centinaio di servi. Quando a Teplitz, il duca di Curlandia fece entrare con sé 14 lacchè, ognuno con 4 borse di fiorini, e sfidò il banco a giocare contro le borse sigillate. Cosa gli abbiamo chiesto? Signore, dicemmo, abbiamo solo 80.000 fiorini al banco, o 200.000 a 3 mesi. Se le borse di vostra altezza non contengono di più di 80.000, possiamo misurarci con voi. E così facemmo. E dopo 11 ore di gioco, in cui il nostro banco, a un certo punto, si era ridotto a 203 ducati, gli vincemmo 17.000 fiorini. Non vi sembra audacia, questa? E questa professione non richiede abilità, perseveranza e coraggio? 4 teste coronate seguivano la partita, e quando voltai l'asso di cuori e raddoppiai la posta, una principessa imperiale scoppiò in lacrime. Non c'era uomo sul continente europeo che occupasse allora una posizione più alta di Redmond Barry. E quando il duca di Curlandia perse, si compiacque di dire che avevamo vinto nobilmente. E così era. E quello che avevamo vinto, nobilmente, lo spendemmo. A quei tempi mio zio, che andava a messa puntualmente ogni giorno, metteva sempre 10 fiorini nella cassetta delle elemosine. Dovunque andassimo, i locandieri ci ricevevano meglio di principi del sangue. Davamo gli avanzi dei pranzi e delle cene a decine di mendicanti e loro ci benedicevano. Chiunque mi teneva il cavallo o mi lucidava gli stivali riceveva un ducato per la sua fatica. Ero io, posso ben dirlo, l'autore della nostra comune fortuna, perché avevo messo un po' di audacia nel gioco. Pippi era un pusillanime, pauroso ogni volta che cominciava a vincere. Mio zio, lo dico con tutto il rispetto, era troppo osservante, troppo rigoroso nel gioco per riuscire mai a vincere molto. Era intimamente coraggioso, questo era fuor di dubbio, ma gli mancava la temerarietà. Benché fossi il più giovane, tutti e due mi riconobbero molto presto come loro capo. Di qui lo splendido tenore di vita che ho descritto. Ho accennato alla principessa Federica Amelia, che era molto colpita dai miei successi. Penserò sempre con gratitudine alla protezione di cui quell'augusta signora mi onorò. Aveva una violenta passione per il gioco, come del resto le signore di quasi tutte le corti d'Europa a quel tempo, cosa che ci dava non pochi grattacapi, perché, per dirla tutta, alle signore piace molto giocare, questo sì, ma non pagare. Il gentil sesso non comprende bene cosa sia il punto d'onore. Era solo con grandissima difficoltà che riuscivamo, nelle nostre peregrinazioni per le varie corti dell'Europa del Nord, a tenere lontane queste dame dal nostro tavolo, a ottenere il loro denaro se perdevano, oppure, se pagavano, a impedire loro di vendicarsi con furia mai vista. Secondo i miei calcoli, negli anni d'oro della nostra fortuna, perdemmo non meno di 14.000 luigi per tali mancati pagamenti. Una principessa di una casa ducale ci diede fondi di bicchiere invece dei diamanti che ci aveva solennemente promesso. Un'altra architettò il furto dei gioielli della corona e ci avrebbe incolpati del crimine se Pippi non avesse preso la precauzione di conservare una cambiale di sua altissima trasparenza. Pippi la mandò subito al proprio ambasciatore e credo che fu questa precauzione a salvarci il collo. una terza signora di alto rango, ma non principesco, a cui avevo vinto una somma considerevole in perle e diamanti, mandò il suo amante a tendermi un agguato con una banda di tagliagole. E fu solo grazie alla mia straordinaria audacia, abilità e fortuna che sfuggii a quelle canaglie. Ferito, sì, ma non senza aver lasciato il loro capo morto sul terreno. La mia spada gli entrò in un occhio e si spezzò. Ma i mascalzoni che lo accompagnavano, vedendolo cadere, si diedero alla fuga. Altrimenti avrebbero potuto finirmi. Non avevo nulla con cui difendermi. Come si sarà visto, la nostra vita, con tutto il suo splendore, comportava grandissimi pericoli e difficoltà. Occorrevano molto talento e molto coraggio per avere successo. E spesso, quando eravamo al sommo della fortuna, venivamo allontanati sui due piedi dal nostro teatro di operazione per un capriccio del principe regnante, per l'intrigo di un'amante delusa o per un diverbio con il capo della polizia. Se non si riusciva a corrompere o conciliarsi quest'ultimo, niente di più facile per noi che di ricevere all'improvviso l'ordine di partenza. E così la nostra era per forza di cose una vita vagabonda e irrequieta. Anche se i guadagni di una vita simile sono, come ho detto, molto grandi, le spese sono enormi. Il nostro aspetto e il nostro stile di vita parevano sempre troppo splendidi alla mente limitata di Pippi, che non faceva che lamentarsi delle mie spese pazze, anche se era costretto ad ammettere che la sua meschina parsimonia non ci avrebbe mai portato le grandi vittorie ottenute dalla mia generosità. Pur con tutti questi successi, il nostro capitale non era molto grande. Quel bel discorso al duca di Curlandia, per esempio, era soltanto una spacconata per quanto riguardava i 200.000 fiorini a 3 mesi. Non avevamo credito e nemmeno denaro, eccetto quello sul tavolo. Saremmo stati costretti a fuggire se Sua Altezza avesse vinto e accettato le nostre cambiali, e qualche volta incassammo colpi molto duri. Un banco è una certezza, o quasi, ma di tanto in tanto viene per forza una giornata nera. Però chi ha il coraggio della buona sorte dovrebbe almeno sapere affrontare bene la sfortuna. Delle due sfide, credetemi, la più ardua è la prima. Un tiro della mala sorte ci capitò nel territorio del duca di Baden, a Mannheim. Pippi, che era sempre in cerca di affari, propose di tenere un banco alla nostra locanda, dove cenavano alcuni ufficiali dei corazzieri del duca. E così ci fu qualche partita senza impegno, e qualche misera corona e qualche misero Luigi cambiarono di mano, credo anzi, con un certo vantaggio per quei poveri gentiluomini dell'esercito, che di tutti i poveri diavoli del mondo sono certamente i più poveri. Ma siccome ci si era messa di mezzo la mala sorte, un paio di studentelli della vicina università di Heidelberg, che erano venuti a Mannheim per riscuotere la loro provvigione trimestrale e perciò avevano tra tutti e due qualche centinaio di talleri, vennero introdotti al nostro tavolo e, non avendo mai giocato prima, succede sempre così, cominciarono a vincere. E siccome c'era di mezzo la mala sorte, erano pure alticci e, contro un po' d'ubriachezza, ho spesso notato che i calcoli più sottili falliscono miseramente. Giocavano in modo perfettamente assurdo e continuavano a vincere. Ogni carta su cui puntavano era quella che gli serviva. In 10 minuti ci avevano vinto 100 Luigi. E io, vedendo che Pippi cominciava ad arrabbiarsi e che avevamo la fortuna contro, ero dell'idea di chiudere il banco per quella notte, dicendo che si era giocato solo per divertirsi e che adesso eravamo stanchi. Ma Pippi, che quel giorno aveva litigato con me, era deciso a continuare. E il risultato fu che gli studenti giocarono ancora e vinsero ancora. Poi prestarono denaro agli ufficiali, che incominciarono a vincere anche loro. E in questo modo ignobile, in una fumosa stanza di taverna, su un tavolaccio inzaccherato di birra e liquore, contro un gruppo di subalterni affamati e un paio di studenti imberbi. Tre dei più abili e famosi giocatori d'Europa persero 1700 luigi. A ripensarci oggi ne arrossisco ancora. Fu come quando Carlo XII o Riccardo Cuor di Leone caddero davanti a una meschina fortezza in una terra sconosciuta, come ha scritto il mio amico Mr. Johnson. Fu, insomma, una vergognosa disfatta. E non fu la sola. Quando i nostri miseri conquistatori se ne furono andati, sbalorditi per il tesoro che la fortuna gli aveva gettato tra le braccia, uno degli studenti si chiamava Barone di Clutz, forse quello che più tardi ci rimise la testa a Parigi. Pippi riprese la lite della mattina e ci scambiammo parole davvero molto grosse. Ricordo, tra l'altro, di averlo steso con uno sgabello e che volevo buttarlo fuori dalla finestra. Ma mio zio, che aveva conservato la calma e in quel periodo osservava la quaresima con la solennità di sempre, si frappose tra di noi e ci fu una riconciliazione in cui Pippi si scusò e ammise il suo torto. Eppure avrei dovuto dubitare della sincerità di quell'italiano traditore. Non avevo mai creduto a una parola uscita dalla sua bocca. Quindi non so proprio spiegarmi perché io sia stato tanto sciocco da credergli allora e andarmene a letto lasciando in suo possesso le chiavi della nostra piccola cassaforte. Conteneva, dopo la batosta che ci avevano assestato i corazzieri, quasi 8.000 sterline in denaro e cambiali. Pippi insistette a ratificare la nostra rappacificazione con una coppa di vino caldo. Senza dubbio mise nella bevanda qualche droga soporifera, perché la mattina dopo mio zio e io dormimmo tutti e due fino a molto tardi, svegliandoci poi con un violento mal di testa e la febbre alta. Non ci alzammo dal letto prima di mezzogiorno. Pippi se n'era andato da 12 ore, lasciandosi dietro solo la cassaforte vuota e in più un suo strano calcoletto con cui si sforzava di dimostrare che aveva preso solo la sua parte dei guadagni e che tutte le perdite erano state subite senza il suo consenso. Così, dopo 18 mesi, dovevamo ricominciare la nostra carriera da capo. Ma mi persi d'animo io? No. Il nostro guardaroba valeva ancora una grossa somma di denaro, perché a quei tempi i gentiluomini non vestivano come sacrestani e una persona di mondo spesso portava addosso un abito e una serie di monili che avrebbero fatto la fortuna di un ragazzo di bottega. Perciò, senza perdere un minuto a lamentarci né dire una sola parola di rabbia, la tempra di mio zio da questo punto di vista era ammirevole e senza rendere noto ad anima viva il segreto della nostra perdita, impegnammo i 3/4 dei nostri gioielli e vestiti da Moses Lowe, il banchiere ebreo, e con i frutti di questo affare, più gli spiccioli che ci erano rimasti, in tutto più o meno di 800 luigi, scendemmo di nuovo in campo. Massimo Popolizio ha letto Le memorie di Barry Lyndon di William Thackeray, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Riduzione di Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.